البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا ما قانون دولي قانون. Buongiorno Palestina. 141esima trasmissione su Radio Wombat. In questo periodo in cui in Medio Oriente imperversa una violenza che sembra senza fine, dedichiamo invece la trasmissione odierna ai segnali in controtendenza, e cioè ai tentativi di riallacciare rapporti a partire dalle vittime di questa violenza e alle forme di resistenza non violenta che invece permangono. Presenteremo quindi un'intervista a Wajdi Yaish, attivista sociale che si definisce un combattente non violento e che ha creato a Nablus un'associazione che può ben caratterizzarsi come forma di resistenza non violenta. Si tratta di Human Supporter Association, un'organizzazione nata per promuovere il cambiamento, la giustizia sociale e i diritti umani. Wajdi è intervenuto il 26 settembre a Firenze al Circolo Arci fra i lavoratori in via delle Porte Nuove, suscitando un vivo interesse nel pubblico presente. Wajdi sta effettuando un tour in varie città d'Italia per far conoscere e promuovere questa attività. Ancora nel campo di iniziative costruttive per pace e non violenza, dal 27 al 29 settembre a Firenze nel quartiere 4 si è tenuto il Eirene Fest, il Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze, il quartiere 4, la Biblioteca Nova e la Comunità dell'Isolotto. Segnaliamo due libri presentati nell'occasione, il primo dal titolo Combattenti per la Pace, palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva, a cura di Daniela Bezzi, di cui nel corso della trasmissione ascolterete l'intervista. Il secondo libro è stato presentato nel giardino di Villa Vogel domenica 29. Il libro ha il titolo Una terra popolata, storie di vita e resistenza della Palestina, a cura di Sonia e Sofia, volontarie dell'associazione Lilac. Il libro è edito dall'editrice Piagge. Sonia e Sofia hanno trascorso 3 mesi a Lilac. Durante questo periodo hanno ascoltato e riportato testimonianze di alcuni residenti del campo profughi di Deishesh, a sud di Betlemme e di altri campi. Entrambi i libri possono essere richiesti anche scrivendo a Buongiorno Palestina sul blog della nostra trasmissione. Il genocidio in atto a Gaza e l'esacerbarsi della pulizia etnica in Cisgiordania e ora la nuova invasione del Libano stanno riaccendendo l'attenzione ed evidenziano sempre di più il carattere coloniale delle iniziative israeliane. Sul tema colonialismo e colonialità vogliamo presentare in questa trasmissione l'intervista a Marie Moyes, docente presso la John Cabot University di Roma, intervista rilasciataci qualche tempo fa presso l'associazione culturale BHMF di Firenze. Anche oggi la trasmissione andrà in onda senza la consueta rassegna stampa. Ascolteremo però l'approfondimento di Sara e daremo lettura di un articolo di Gideon Levy molto significativo, apparso su Haaretz il 29 settembre a seguito dell'uccisione di Said Hassan Nasrallah, leader del movimento di resistenza libanese Hezbollah, In un assalto che ha raso al suolo un intero blocco di edifici residenziali a Beirut, con bombe americane, cosiddette bunker buster, uccidendo ancora donne e bambini. L'articolo è consultabile in italiano sul sito di assopacepalestina.org, al link che troverete sulla pagina di Buongiorno Palestina numero 141. Per finire, vi daremo notizia delle iniziative ed eventi per la Palestina di cui abbiamo informazione e che si terranno sul territorio toscano entro la fine del mese di ottobre. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. Passiamo ora all'approfondimento di Sara sul Libano. Continua la terribile offensiva di Israele sul Libano, iniziata il 23 settembre con bombardamenti in diverse zone del paese. Hezbollah ha continuato in queste settimane le sue azioni, con il lancio di missili verso le aree settentrionali del cosiddetto Stato di Israele. La situazione è in continuo divenire, con la pervasiva e costante minaccia dell'invasione di terra da parte delle forze di occupazione israeliane, diventata particolarmente realistica nella notte fra lunedì 30 e martedì 1 ottobre. Israele ha già invaso il Libano nel 2006 e prima di allora nel 1982 e nel 1978. Ad oggi, al 1 di ottobre, si parla di almeno 1640 vittime e di circa un milione di libanesi costretto a sfollare e a spostarsi a nord, lasciando le proprie case. Il 27 settembre un attacco israeliano ha ucciso il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, a capo del movimento dal 1992. Si tratta di un omicidio mirato, extragiudiziale, che è stato dipinto come una vittoria dagli ufficiali sionisti. Lunedì 30 settembre Israele ha colpito Kola, un distretto centrale della città di Beirut. Nell'attacco sono stati uccisi tre membri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. È la prima volta che Israele colpisce un'area centrale della città, un'area a nord rispetto alle aree suburbane dove è più radicata la presenza di Hezbollah. L'assalto dell'entità sionista al paese dei Cedri ricalca, per adesso, tutti i passaggi e le narrazioni genocidarie che sono state utilizzate da Israele in quest'ultimo anno a Gaza. Per prima cosa, la retorica della lotta contro il terrorismo. Hezbollah, come Hamas, è dipinto come una minaccia all'esistenza dello Stato di Israele. Dunque, per eliminare la minaccia, tutti e tutte in Libano diventano Hezbollah, come tutte e tutti a Gaza diventano Hamas. Un secondo fattore è la strategia del bombardamento a tappeto e l'uso della bomba da 200 libbre, anche chiamata bomba antibunker, che penetra in profondità nel suolo o negli edifici, causando una immane distruzione. Solo nel primo giorno di bombardamenti sono state uccise 585 persone. Un altro elemento nell'ormai collaudato protocollo di distruzione israeliano è l'attacco contro ospedali, cliniche, contro personale sanitario e contro ambulanze, proprio come succede ed è successo a Gaza durante quest'ultimo anno. Israele ha sostenuto la presenza di basi militari di Hamas sotto infrastrutture civili o strutture sanitarie, come nell'emblematico caso dell'ospedale Al-Shifa. La stessa tattica è usata per sostenere che armi di grossa taglia sono nascoste da Hezbollah dentro abitazioni civili della popolazione libanese. In entrambi i casi non sono state fornite da Israele delle prove consistenti o minimamente significative. Un altro elemento l'evacuazione forzata. Quindi Israele ha costretto fra novembre e dicembre circa 1.100.000 palestinesi di Gaza alla rimozione forzata, costretti a spostarsi dal nord verso sud. Allo stesso modo, l'esercito israeliano ha inviato messaggi ai libanesi nel sud del paese per costringerli a lasciare le loro case e ad evacuare verso nord. È chiaro che fra gli obiettivi di Israele a questo punto c'è quello di costringere la società libanese a fare pressione sui gruppi della resistenza affinché essi mettano da parte la lotta per la liberazione della Palestina. Un altro fondamentale obiettivo per Israele, almeno a breve termine, è quello di disconnettere il destino di Gaza da quello del Libano. Ma questo, con le parole della giornalista Romana Rubeo, è impossibile. Hezbollah non separerà il proprio destino da quello palestinese e tantomeno lo farà il popolo libanese. وكانت ضحكتها تغطي تغطي سماء فلسطين كانت سارة ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي تغطي سماء فلسطين غافلها القناص بطلقة في الراس في رأس سارة الصغير غافلها القناص بطلقة في الراس في رأس سارة الصغير La barbara allegria di Israele per l'assassinio di Nasrallah è un nuovo punto di caduta per la società israeliana. Questo è il titolo di un articolo di Gideon Levy pubblicato il 29 settembre su Haaretz. Un altro giornalista molto più importante e popolare, scrive Gideon Levy, Ben Caspit, un rappresentante del finto centro moderato, ha scritto su X: il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato schiacciato nella sua tana ed è morto come una lucertola. Una fine appropriata. Come se avesse fatto irruzione lui stesso nel bunker. Questo patriottismo barbaro ha alzato la testa sabato 28 settembre. Israele ha gioito. I nazisti chiamavano gli ebrei gratti e Nasrallah era una lucertola. Chi potrebbe avere da ridire su questo? I fascisti più estremisti erano ancora rintanati nelle loro sinagoghe in attesa delle tre stelle di Orione al tramonto per sputare le loro volgarità e la loro gioia malata. Ma nel frattempo il dignitoso e illuminato Ben Caspitz ha fatto il suo lavoro in modo ammirevole. «Sheenianu vehyamanu», ha scritto uno di loro, citando a una preghiera di ringraziamento un sentimento sentito da molti. La quantità di morti causati dalle 80 bombe americane non è ancora chiara, ma i numeri non fanno alcun effetto in Israele, 100 o 1000 civili innocenti, persino la morte di decine di migliaia di bambini, non cambierà nulla nello stato d'animo israeliano. Perché allora non una piccola bomba atomica? Dopotutto abbiamo ucciso Hitler. Non è necessario essere un guastafeste seriale per mettere in discussione la gioia e le sue ragioni. La situazione di Israele è migliore domenica mattina rispetto a venerdì mattina? L'umore della maggior parte degli israeliani si è risollevato dopo un anno cupo. Siamo tornati tutti a onorare i militari e a venerare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Non tutti, ma cosa è cambiato? Hassan Nasrallah era destinato alla morte perché era un acerrimo nemico di Israele e del Libano, ma la sua uccisione non salverà Israele. Nella nostra prima settimana senza Nasrallah faremo bene a guardarci intorno. La Cisgiordania è sul punto di esplodere. Israele è bloccato in una Gaza in rovina, senza alcun via di uscita all'orizzonte. Così come avviene per gli ostaggi. Moody's ha declassato l'economia al livello più basso nella storia del paese. Il massacro di massa iniziato a Gaza si sta spostando in Libano. Mezzo milione di persone sono state sfollate dalle loro case. Oltre a 2 milioni di loro compagni di sventura nella striscia che vagano qua e là, indigenti. Ma ehi, abbiamo ucciso Hitler. È meglio non parlare della posizione internazionale di Israele. È bastato guardare l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante il discorso di Netanyahu venerdì. Anche la situazione della sicurezza è più traballante di quanto sembri. Aspettiamo la guerra nella regione che potrebbe ancora scoppiare. Venerdì abbiamo fatto grandi passi avanti verso di essa. Nel frattempo il paese vive nel terrore. Venerdì non ha portato le decine di migliaia di persone sfollate dal nord nemmeno di un passo più vicine al ritorno. Ma Israele gioisce per la caduta del suo nemico. Nell'ultimo anno Israele ha parlato una sola lingua, quella della guerra e della forza sfrenata. È sconcertante pensare che per questo motivo milioni di persone hanno perso tutto, mentre gli attentatori bombardavano Daesh a Beirut, tra gli applausi di Israele, milioni di persone a Gaza, in Cisgiordania, in Libano piangevano amaramente per il loro destino, per i loro morti, per i mutilati, per le loro proprietà distrutte e per la perdita degli ultimi brandelli della loro dignità. Non hanno più nulla. Questa è la realtà che Israele sta promettendo. Nasrallah, vivo o morto, un giorno il vulcano esploderà. Dipendendo dall'America, complice servile del massacro a Gaza e della guerra in Libano, che non ha fatto nulla per evitarli, se non le finte parole del presidente Joe Biden e del segretario di Stato Anthony Blinken, ambedue impotenti davanti a Netanyahu. Israele pensa di poter andare avanti così per sempre e non vede altre opzioni. Tutto sarebbe impossibile senza il sostegno di Washington. L'America non resterà così per sempre, viste le sue tendenze isolazioniste. Cosa succederà allora? Congratulazioni per l'uccisione di Nasrallah. E Mazel Tov, buona fortuna in ebraico, il suo successore sta aspettando dietro le quinte e, a giudicare dalle esperienze passate, sarà ancora più pericoloso. E Israele ucciderà anche lui e distribuirà cioccolata ai passanti? القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خاف عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين Yuma Supporter Association viene presentata come forma di resistenza non violenta. Essa si prefigge di potenziare e servire la comunità locale di Nablus, concentrando la sua attenzione soprattutto ai bambini, ai giovani e alle donne delle comunità più emarginate, quelle dei campi profughi, dei villaggi lontani e della città vecchia di Nablus. L'associazione organizza attività culturali, artistiche e sportive, corsi di danza, dabka e capoeira, tornei di calcio, corsi di lingua inglese e francese ed è presente con biblioteche di strada. Nell'intervista che segue, letta in italiano da Manuela, Wajdi ci parla della sua scelta per la non violenza. Sull'associazione troverete maggiori informazioni al link nella pagina di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Buongiorno Wajdi, i soldati israeliani ti hanno sparato e ti colpirono ad una gamba allora. Tuttavia tu decidesti che la forma non violenta, la resistenza non violenta, potesse essere efficace per combattere l'occupazione. Ci diresti come sei arrivato a questa decisione, mentre che forme molto violente venivano scelte invece da altri intorno a te? Grazie per questa intervista. Penso che ci voglia molta più forza ad essere non violenti piuttosto che violenti, perché la violenza porta solo violenza ed è un cerchio che non finisce mai. Quindi sì, per me è importante cercare di avere giustizia e mettere in atto forme di lotta non violenta contro l'occupazione. Questo è il mio modo. Quanti anni avevi quando ti hanno sparato alla gamba? Era il 2003, quindi avevo circa 17-18 anni. Quindi questo successe durante la seconda intifada. Quando è che hai invece iniziato la tua attività e avviato la tua associazione di sostegno a bambini, giovani e donne? È stato quando ho considerato le conseguenze delle incursioni israeliane durante la seconda intifada, che era iniziata nell'aprile 2002. Quello è stato il punto di riflessione per me, nella ricerca di un modo di aiutare il popolo palestinese. Sono palestinese anch'io e cercai di soccorrere le vittime ferite dai soldati israeliani, le persone rinchiuse nelle loro case mentre i soldati prendevano parte della loro casa per trasformarla in centro di interrogatorio o in zona militare. Il mio modo utile di aiutare fu quello di far parte di una squadra di paramedici come attivista palestinese per gli aspetti umani. Quindi sì, ho scelto questa strada perché è importante, come ho detto. La non violenza è molto più forte della violenza e credo nella giustizia e onestamente ho lavorato molto su me stesso per essere chi sono oggi, perché non è facile scegliere questa strada mentre sei circondato dalla violenza e di violenza è pieno l'ambiente intorno a te. E come viene considerato il tuo atteggiamento favorevole a forme di resistenza non violenta? Sei considerato strano, fuori della norma, oppure queste forme sono condivise, accettate anche da altre persone? Penso che in Palestina abbiamo diversi punti di vista. Alcune persone usano modi diversi, alcune persone usano il mio modo e il mio modo viene sostenuto. Molte persone sono molto contente del sostegno a bambini, giovani e donne che forniamo come associazione. Nella mia famiglia sono orgogliosi di me e orgogliosi di tutto ciò che facciamo. Le persone che vengono all'associazione, bambini, giovani e donne, ne restano assai soddisfatti e ne vediamo gli effetti e la ricaduta sulla società. Abbiamo molti bambini traumatizzati, quindi cerchiamo di aiutarli perché saranno i leaders del futuro. Non possiamo evitare il ripetersi del ciclo di violenza se trascuriamo bambini traumatizzati, bambini che hanno perso il padre o il fratello o la loro casa. Allora entreremmo in un ciclo di vendetta e violenza. Quindi cerchiamo di combattere l'occupazione in un modo diverso con l'intelletto, con il nostro cervello, con la nostra penna e matita e quaderno. Questo è il nostro modo di combattere l'occupazione, ma naturalmente ognuno sceglie la sua strada e secondo me, come combattente non violento, credo che tutti i modi di combattere siano buoni e dobbiamo rispettarli. Puoi ora raccontarci qualche cosa, qualche episodio di resistenza non violenta nell'affrontare l'occupazione a cui avete partecipato come associazione? Sì, certo. In realtà una delle nostre iniziative è quella di avere sessioni espressive con i bambini. Così iniziano a dipingere e tutti i loro colori parlano di occupazione, scontri, voglio indietro mio padre, eccetera, eccetera. Quindi i bambini hanno scritto messaggi che volevano inviare ai soldati israeliani e ovviamente questo è pericoloso per loro. Quindi noi adulti, con alcuni volontari internazionali, abbiamo preso l'iniziativa. Abbiamo preso quei messaggi dei bambini, li abbiamo scritti in grandi cartelli e li abbiamo portati al vicino posto di blocco nella città di Nablus. Abbiamo portato con noi del cibo, qualche strumento musicale e lo abbiamo chiamato picnic al posto di blocco. È un'attività assolutamente non violenta. Quindi far conoscere ai soldati israeliani i messaggi dei bambini era un compito che ci sentivamo di dover compiere nei confronti dei bambini. Sfortunatamente il picnic non è durato più di 5 minuti perché i soldati ci hanno accolto molto violentemente, hanno chiuso il posto di blocco, hanno impedito alle persone di passare e fermato le macchine, hanno iniziato a sparare, eccetera, eccetera. È stato davvero violento e questa è una punizione di gruppo, un avvertimento a non farlo più. Se lo fai, anche gli altri palestinesi saranno puniti con te e questo è il loro modo di fare, purtroppo regolarmente. Yeah. فكرة يا أستاذ ويا معلم في بعصاي ما بنفهم فكرة لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة أسرة لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة Come abbiamo accennato nell'introduzione, a Firenze dal 27 al 29 settembre, nel quartiere 4, si è tenuto l'Eirene Fest, il festival del libro per la pace e la non violenza. Sabato 28 alla Biblioteca Canova è stato presentato il libro a cura di Daniela Bezzi, Combattenti per la pace, palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva. Daniela Bezzi, curatrice del libro, o meglio cucitrice, come lei ama definirsi, di testimonianze ed esperienze del movimento dei Combats for Peace, è stata corrispondente dal Giappone, Gran Bretagna e India per pagine estere e di numerose testate. Collabora con Presenza e con il Centro Studi Sereno Regis di Torino su temi di giustizia sociale, climatica, libertà di dissenso e inclusione. Questo libro raccoglie la storia, la sfida, la quotidiana affermazione di speranza di un movimento di ex militari israeliani e militanti palestinesi che un certo giorno, in una terra martoriata dal conflitto, cominciano a parlarsi. Al libro hanno collaborato Luisa Morgantini, Ilaria Olimpico, Sergio Sinigallia, Shen Alon, Suleiman Khatib, Esther Koreani e Rana Salman. Adesso abbiamo qui Daniela, che è la curatrice del libro, per cui ci potrà spiegare e dare delle informazioni, soprattutto su questo movimento che, insomma, avrà avuto nel tempo, è 20 anni che, almeno si leggeva, è 20 anni che esiste, quali sono, diciamo, gli sviluppi più recenti, attuali? Lascio la parola a Claudio. A me, grazie. Dunque, una domanda ovvia è quale sia l'attualità oggi dei Combatants for Peace, e direi che l'attualità ci viene suggerita anche dal fatto che nei giorni scorsi abbiamo ascoltato a Firenze Wajdi, che è un attivista di Nablus che organizza e svolge attività di resistenza non violenta. E quindi chiedo qual è l'attualità della resistenza non violenta in questo contesto, riferendomi a un'affermazione che viene fatta, almeno nell'articolo che ho letto, che di non violenza e di pace bisogna pensarci proprio nel momento in cui c'è la guerra. Ecco. Daniela, dici un po' qual è l'attualità e poi ti chiedo anche un'altra cosa dopo. Certo. Vai. Dunque, allora, intanto grazie per l'attenzione, per questo invito. Allora, molto rapidamente, il Movimento dei Combattenti per la Pace è nato, appunto, come avete già accennato, una ventina d'anni fa. Era la conclusione della seconda intifada. C'era già stato in Israele un precedente molto importante, quando un certo Jonathan Shapira, combattente IDF, soldato arruolato nelle milizie israeliane, aveva pubblicato una lettera, eravamo i primi del nuovo millennio, una lettera che appunto denunciava tutti i misfatti, tutto il il condizionamento senza limiti di violenza che appunto rappresentava la non etica dell'intervento militare israeliano nei territori occupati, ed eravamo 20 anni fa, non avevamo ancora raggiunto gli estremismi attuali, e fu una lettera che suscitò un grandissimo clamore in contemporanea con un movimento molto importante. Dico cose che probabilmente sicuramente già sa benissimo, essendo appunto impegnata con la Pace Palestina, in contemporanea appunto con un altro movimento molto importante che vedeva l'incontro nel famoso Parents Circle Forum, cioè il forum dei genitori colpiti da eventi, dalle uccisioni, dalle bombe, insomma da una serie di situazioni violente che avevano privato le famiglie, dei bambini, di membri della famiglia, eccetera, e l'incontro appunto nel confronto del dolore. E questa era stata un'altra esperienza molto molto importante. Faccio un inciso: i due protagonisti più importanti di questo movimento sono stati recentemente accolti anche dal Papa Francesco. Cosa è successo? È successo a un certo punto nel 2005, come conseguenza di questo clima di dissenso molto molto forte, molto partecipato, molto sempre più condiviso, benché in una fetta limitata di popolazione israeliana e ancora più limitata dal palestinese, ha creato l'incontro di questo nucleo inizialmente ridottissimo, 4 palestinesi e 7 israeliani, che si sono incontrati in una situazione abbastanza rocambolesca. Come, se volete guardare su YouTube, c'è un bellissimo film che si chiama Disturbing the Peace, Disturbare la pace, del 2016, da non confondere con un film che si chiama nello stesso modo che un western. Disturbing the Peace del regista Stephen Upton, che ha realizzato questo film dopo anni di ricerche e di interviste per conoscere la storia uno per uno di tutti questi israeliani e palestinesi che avevano avuto, diciamo, pure il coraggio di immaginare un incontro di questo genere. Perché il coraggio? Perché il film lo mette molto bene, la difficoltà di pensare, cioè la difficoltà di credere in quella telefonata che arriva improvvisamente: vediamoci in un giorno tale in Cisgiordania, ma cosa sarà? Sarà un ennesimo, una trappola, possiamo crederci. E in tutto questo veniamo a scoprire nel primo capitolo, che appunto abbiamo messo in introduzione del libro, quanto importante è stato il lavoro di presenza, testimonianza, mediazione, tessitura della nostra magnifica Luisa Morgantini. Lei proprio... Scusa, ti posso interrompere? Scusa. No, ti volevo chiedere, dunque, tu stai parlando del 2005, del 2006, un periodo in cui sono nate anche molte speranze che poi sono state deluse per l'ennesima volta, no? Almeno nei confronti dei palestinesi. Diciamo, sono passati 20 anni da allora. Ecco, questi gruppi hanno ancora una loro vita oggi, e ci indicano qualcosa? Questa è una prima domanda. La seconda è: quali sono, secondo te, i segnali deboli su cui possiamo lavorare noi qui oggi? Ecco, sulla base anche di quella esperienza, perché questi noi li andiamo cercando, perché siamo sicuri che da qualche parte ci sono. Ecco, vorremmo riconoscerli. Sono più che mai vivi, più che mai attivi. La cosa straordinaria è questa, che in 20 anni di, come tu dici, di delusioni, di speranze andate perdute, di episodi che avrebbero potuto scoraggiare davvero chiunque, e soprattutto in questo momento, vorrei farvi notare, in cui proprio oggi leggevo, aspettando questo incontro, leggevo l'articolo di Gideon Levy pubblicato tra l'altro sul sito di Assopace Palestina, che appunto registra una situazione di barbara allegria, così la chiama lui, con cui appunto la società israeliana sta salutando la tragedia che si sta consumando in questo momento, non più soltanto in West Bank e a Gaza, che rischiano di, come dire, passare in secondo piano rispetto allo scenario di guerra che si sta estendendo in Libano, eccetera. In tutti questi anni questi gruppi si sono anzi moltiplicati e hanno creato una tale sinergia gli uni con gli altri che, per esempio, durante quest'estate, in particolare in coincidenza con la recrudescenza dell'aggressività dell'IDF anche in West Bank, vediamo lavorare appunto in strettissimo contatto il movimento dei Breaking the Silence, cioè all'interno di una situazione che ha a che fare più, come dire, più ravvicinata con l'esercito, con i combattenti per la pace, per accompagnare quelle delegazioni di Israele che finalmente vogliono capire un po' meglio di cosa è fatto questo conflitto e vogliono quindi andare a vedere con i loro occhi cosa succede in West Bank, che non si limitano e non si accontentano e non ne possono più della propaganda di guerra di Netanyahu. E questo è un lavoro appunto di, come dire, di contropropaganda, di sensibilizzazione, di esposizione diretta, fisica, emotiva, identificativa in una situazione di conflitto che è senza precedenti e che sta sempre di più lavorando appunto in contrasto con quella ideologia sempre più dominante purtroppo in questi ultimi giorni che vede, ahimè, il revival di popolarità di Netanyahu, nonostante il totale fallimento della sua andata, come abbiamo visto, a New York. Ha parlato, ha detto quello che ha detto a una platea che significativamente ha lasciato la sala. La seconda domanda che mi facevi, cosa possiamo fare noi? Possiamo, innanzitutto, dovremmo capire che questa realtà esiste. Io lo dico parlando a questo punto di me, che appunto il libro sono citata come curatrice, in realtà sono stata proprio una cucitrice di situazioni che dopo la prima, come dire, la prima percezione di questa realtà di cui non sapevo assolutamente nulla, che mi è stata possibile percepire grazie al contributo di una collaboratrice del tutto estemporanea di presenza, perché non è una giornata presenza, ma che è stata web, online, alla quale collaboro. Contributo di una ragazza, appunto, di una giovane donna che si chiama Ilaria Olimpico, che non è una giornalista, che è sposata con un ex refusnik israeliano, abitano entrambi in Italia, il 7 ottobre erano a Tel Aviv, nella situazione che possiamo immaginare, di sgomento per noi e di sgomento all'ennesima potenza per chi era lì, e che appunto a un certo punto ha fatto arrivare in redazione una proposta. La proposta era: guardate che non esiste soltanto la polarizzazione che ci raccontano e nella quale stiamo tutti cadendo, c'è anche un'altra situazione. E ci ha proposto appunto la prima doppia intervista con i due principali fondatori del movimento, quindi quasi 20 anni fa, Chenalon e Sulaiman Khatib, e poi a distanza di pochissimi mesi la seconda doppia intervista con le due attuali co-direttrici, Esther Korany e Rana Salman, che tra l'altro saranno presto in Italia nell'ambito di una specie di tour, insomma, che partirà da Milano verso metà novembre e si concluderà a Napoli. E che cosa ci dicono queste due interviste? Che appunto, a distanza di anni, dal 2005 ad oggi, il movimento non è più soltanto un movimento di ex combattenti pentiti per le nefandezze che vi tocca fare come soldati dell'IDF, o di ex militanti pentiti per l'estremismo della lotta armata, che essendo lotta armata è estremista per definizione, ma è riuscito ad aggregare sempre più donne, sempre più giovani. Adesso il movimento è quasi esclusivamente di giovani che spesso vengono dall'Australia, dall'America, un tempo sarebbero andati a fare le loro esperienze di ebrei così desiderosi di riconnettersi con le radici, eccetera, eccetera, nei kibbutz, adesso vengono per fare, che ne so, il media manager, l'organizzatore di questi tour di cui parlavo prima, il press officer, con capacità gestionali e di comunicazione straordinarie. Infatti, non a caso, il movimento si è sviluppato moltissimo anche, questo è molto significativo, negli Stati Uniti, c'è cioè un'associazione sorella che si chiama American Friends of Combatants of Peace, che sono importantissimi per disseminare questo tipo di situazione all'interno di quella situazione che è in realtà la radice del problema, perché sappiamo benissimo che senza le sovvenzioni, senza le armi, senza l'appoggio americano, tutta questa situazione non sarebbe andata avanti come è andata avanti. Siamo implicati. Guarda, vorrei concludere con questa citazione proprio del regista di quel film che vi ho citato prima, che dice: cosa possiamo fare? Stai già facendo, se non ti dai, se non ti stai attivando per la pace, ti sei rassegnato alla guerra. Quindi siamo tutti quanti in prima linea. لكم خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بين ليل يا من يا من عين ليل أنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة منرجع زي زمان وتصير وتيجوا عنا شعبنا جبار ما نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الحجار. E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Salman Jabr, già ospite al CPA il 12 aprile scorso in webinar dalla Palestina e con la partecipazione del Centro Antonino Artaud di Pisa, venerdì 12 luglio si è svolta presso l'Associazione Culturale BHMF una iniziativa su colonialismo e colonialità, aspetti psicologici e psichiatrici. Il BHMF, Black History Mount Florence, è un'associazione culturale che si occupa di storia dal punto di vista dei neri, costituita soprattutto da giovani di seconda generazione di origine africana, con una nuova sede in via Santa Reparata 19 Rosso. La relazione introduttiva al tema del colonialismo e colonialità fu fatta da Marie Moise, docente presso la John Cabot University, università statunitense di materie artistiche con sede a Roma. Tale relazione fu molto apprezzata, in particolare riguardo alla focalizzazione sulle forme di dominio, che Marie Moise riassume nell'intervista che segue. Troverete altre indicazioni riguardo a Marie Moise sul blog della nostra trasmissione Buongiorno Palestina 141 su Radio Wombat. Dopo, a seguito dell'intervento, ne parliamo brevemente con Marie Moise, che ha fatto, diciamo, la relazione iniziale e che ha parlato del colonialismo secondo essenzialmente tre concetti esposti molto chiaramente e che le chiederemo ora di riesporci. Questi tre concetti sono il possesso della terra, la categorizzazione, la gerarchizzazione umana e l'aspetto globale. Ecco, ce li vuole ripetere per cortesia o illustrarceli? Grazie. Molto volentieri. Sì, quello che provavo anche durante l'incontro di oggi a illustrare è una comprensione del colonialismo sulla base di tre principi. Il primo è quello della terra nullius, della terra di nessuno, ovvero l'idea che il colonialismo ha imposto nelle nostre menti, nel nostro modo di stare in relazione, nel nostro modo di concepirci nel mondo, a partire dall'idea che la terra sia di nessuno e per questo appropriabile da qualcuno. E per questo, il colonialismo ha imposto l'idea che qualcuno possa dirsi proprietario della terra. Ecco, da questo e da questo concetto deriva anche il secondo. Sì, sono assolutamente connessi, perché nel momento in cui la terra viene concepita come proprietà di qualcuno, ecco che quel qualcuno viene circoscritto a un'idea specifica di essere umano proprietario della terra, mentre coloro che la abitano, coloro che magari semplicemente la vivono, poiché non si rapportano alla terra come proprietari, vengono considerati nessuno, vengono considerati meno umani, subumani, ed ecco che quindi viene a costruirsi una vera e propria gerarchia dell'umano, una vera e propria gerarchia del vivente, laddove umani sono solo i colonizzatori, coloro che si rivendicano proprietari della terra, mentre subumani sono considerati tutte le altre forme del vivente, al di sotto del quale poi vediamo classificate piante, animali, risorse ambientali. Ecco, il colonialismo ha proprio imposto questa gerarchia del vivente, imponendo al vertice coloro che si rivendicano di possedere la terra e quindi di sfruttarla e quindi di annientarla e quindi di dominarla, di esercitare il dominio coloniale per l'appunto. Ecco, il concetto di Stato in questo contesto come si colloca? In questo contesto il concetto di Stato è fondamentale e strategico per la mentalità coloniale, per l'idea coloniale del potere, poiché la terra, se è proprietà di qualcuno, diventa una terra statuale, diventa una terra circoscritta da specifici confini all'interno delle quali si esercita un vero e proprio controllo della terra. Mi pare che questo sia abbastanza esplicito in quanto in un'affermazione sionista, cioè che il popolo palestinese non esiste in quanto non esiste uno Stato palestinese, ma la gente in Palestina ci abitava e come? Esatto, la mia sensazione è che l'entità sionista di Israele abbia potuto affermarsi come dominio coloniale proprio nel momento in cui ha considerato quella terra una terra di nessuno, ovvero considerando la popolazione palestinese come nessuno, come qualcosa di, come dei subumani, o addirittura Netanyahu, l'abbiamo visto, nominare la popolazione palestinese come degli animali umani. In queste parole si disvela tutta la concezione coloniale con cui Israele intende dominare sulla terra palestinese. Ecco, per quanto riguarda il terzo concetto, quello della globalizzazione. Il terzo concetto è fondamentale per comprendere come non stiamo semplicemente parlando appunto di una mentalità circoscritta, ma di un sistema di funzionamento relazionale che è stato elevato a sistema mondo. Perché nella misura in cui le strutture coloniali non sono qualcosa di circoscritto a una parte del globo, ma all'intero sistema politico, economico e sociale. Non esiste frammento, elemento di questa società globale che non si poggi su delle strutture, su delle logiche coloniali. Ecco, questo forse è l'elemento nuovo dell'ultimo mezzo secolo. Nella esposizione ha parlato e ha richiamato più volte gli strumenti di analisi di Frantz Fanon. Ecco, non è la prima volta che sento rammentare questo importante autore. Ecco, che cosa degli strumenti di Frantz Fanon è ancora attuale e nel contesto attuale l'attualità permane? Teniamo conto, Frantz Fanon è morto 60 anni fa. Sì, Frantz Fanon, a ben vedere, io penso, sicuramente possiamo considerarlo un autore, è considerato uno psichiatra, è considerato un filosofo. Oggi ho personalmente tenuto a rievocare il suo nome e il suo pensiero, non tanto in quanto autore, ma in quanto militante, in quanto rivoluzionario. Oggi io credo che l'attualità di Frantz Fanon è tutta legata alla sua esperienza su questo pianeta come militante rivoluzionario, che oggi torna ad essere attuale nella misura in cui in questo paese in particolare, io penso, c'è una nuova generazione di discendenti della colonizzazione che si rivendica di fatto quel patrimonio di pratiche e di riflessioni che Frantz Fanon ha lasciato anche attraverso la scrittura, ma soprattutto attraverso le sue pratiche. Se c'è qualcosa, come dire, che per me incarna l'approccio decoloniale, nella misura in cui il colonialismo è una forma di sradicamento dalla storia, ecco, la prima pratica di riappropriazione decoloniale è proprio di riappropriazione di una storia, di un passato che ci è stato, perché mi rivendico a mia volta discendente del colonialismo, che ci è stato sottratto. Quindi riattualizzare Fanon significa riportare nel presente un intero patrimonio, un'intera di ascendenza, di memoria di lotta, di strategie di resistenza. Lei accennava, faceva un qualche accenno di tipo auto, di esperienza sua personale. Qual è questa? Lei è di origine non italiana? Sono solo per metà italiana, l'altra metà della mia famiglia è haitiana, e se ho voluto esplicitare questo dato è perché penso che sia fondamentale che la politica, e in questo Frantz Fanon ci aiuta tantissimo, non sia qualcosa di astratto dai corpi in cui viviamo. I nostri corpi sono un sito di memorie, sono il primo luogo in cui facciamo politica. Oggi abbiamo parlato di traumi, abbiamo parlato di tutto ciò che concerne le strutture psichiche con cui abitiamo e attraversiamo l'esperienza del dominio. Ecco perché ho voluto nominare anche il mio corpo e l'origine del mio corpo, perché è attraverso questo corpo, è attraverso le memorie che questo corpo incarna, che faccio politica, sento il bisogno di fare politica e di ripensare la politica. Grazie Marie Moïse, e a una prossima volta. Grazie. Grazie. في اليوم نسقي بدموعه ودمي شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعبي وزنبو يا طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين بس باللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلي والله ما توحشتش اللي جوتني كل يوم بحكوا لي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي حال وانا واقف وحدي العالم ضدي وانا مخشى سلموني روحي حتى الارض تعيش مفتاح البيت بقلبي في غزة اليوم تتعرض للإبادة وما كلمتينا من نصر ما شهادة فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرا جميلا العدو سيزول وين الأمة العربية حان الوقت لننثر في بان وعد الحق يوفى وعد الفور وانا قلبي فلسطيني يلا في العمور كل الدنيا بلادي وأرضي الدنيا بلادي من قديم الزمان. Finalmente la notizia che aspettavamo è arrivata. Approvata la risoluzione sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Ieri, 30 settembre 2024, il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato una mozione proposta dalla Commissione 7 per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il Consiglio Comunale fiorentino ha approvato con 21 sì e 6 no la risoluzione proposta da Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, Stefania Collesei e Luca Milani, Partito Democratico, Caterina Arciprete, Alleanza Verdi a Sinistra Ecolò, Cecilia Del Re, Firenze Democratica e Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle, che chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Queste le dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Luca Milani, che è esordito con il titolo «Tentiamo un'ultima possibilità per una pace giusta di due popoli in due stati». Per poi aggiungere, parto da una riflessione di Sabino Cassese sul Corriere della Sera di sabato scorso per spiegare e motivare circa l'urgenza del riconoscimento dello Stato di Palestina che il Consiglio Comunale di Firenze ha votato pur non senza le solite polemiche. Ecco, non leggo oltre, per leggere il testo completo potete collegarvi al link che trovate sulla pagina di Buongiorno Palestina di oggi. Aggiungo soltanto che al Consiglio Comunale di Firenze si sono uniti altri 14 comuni: Barberino de Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Empoli, Firenze, La Strassigna, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Rignano, Sesto Fiorentino, Signa, Vicchio e Vinci. La discussione dell'ordine del giorno è programmata in altri 9 comuni per i prossimi giorni e nello specifico l'ordine del giorno approvato impegna i consigli comunali in 3 precise richieste, questo è un anticipo, al governo italiano, ovvero quella di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all'occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità e ad impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l'annessione dei territori palestinesi occupati. Passiamo ora ai numerosi appuntamenti dei prossimi giorni. Il 2, cioè oggi, alla Casa del Popolo in San Nicolò, incontro su donne e resistenza. Il 7 ottobre alle 21 a Sesto Fiorentino, alla Pieve di San Martino, incontro con Guy Botavia, ebreo israeliano attivista per i diritti umani. Sempre il 7 ottobre alle ore 19 al Teatro De Filippo, in via Vico 1, Cecina, apriscena di autofinanziamento, incontro e dibattito con l'associazione Livorno Palestina e le ONG Un Ponte per le Canterine World Music, spazio informativo, campagna di manifesti per la Palestina. L'8 ottobre in piazza Santissima Annunziata nel pomeriggio iniziativa di Non Una di Meno. Il 9 ottobre, mercoledì, alla Casa del Popolo di San Nicolò, iniziativa di Firenze per la Palestina, alle 18 presentazione del libro Il 7 ottobre tra verità e propaganda, presente l'autore Roberto Iannuzzi. A seguire dibattito e apriscena. Per quanto riguarda la manifestazione di Roma del 5 ottobre, vi leggiamo questo comunicato. Titolo: Con la Palestina, la sua resistenza, il movimento di solidarietà. Quattro realtà palestinesi presenti sul territorio hanno fatto un appello affinché il 5 ottobre si svolga a Roma una manifestazione nazionale per condannare il genocidio che da un anno si sta compiendo in Palestina ad opera dell'occupazione israeliana. Questura e governo hanno risposto con il divieto a manifestare. Divieto che è in linea con l'appoggio e la complicità dell'Italia, come di tutto l'Occidente, verso Israele e le sue politiche di annientamento del popolo palestinese. Divieto che non è altro che il preludio alla messa in pratica del decreto legge 1660 che inasprisce i livelli repressivi verso qualunque forma di dissenso ed incompatibilità con lo stato di cose presenti. Firenze per la Palestina condanna senza se e senza ma il divieto e ribadisce il proprio essere a fianco con la volontà di liberazione del popolo palestinese e sollecita tutti ad intensificare le iniziative di boicottaggio verso tutte le forme di collaborazione tra Italia e l'occupazione israeliana. Dalle 10 in Piazza Pitti sarà allestito un presidio informativo. Troverete il volantino del presidio sul blog della trasmissione di oggi. Buongiorno Palestina. Questa era la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione il 16 ottobre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. وحدي وطني صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا صفقة جو